Antenate 2, Borisiana, il paese delle donne che discendono dalle madri, di Devana, edizione dell'autrice di Antonella Barina. Prologo. Ah, quanta determinazione ci vuole per continuare a scrivere. Da quanti millenni il lavoro delle mie sorelle, eccetto poche, è svalutato, ignorato, occultato, distrutto. Io, Devana, resto senza parole di fronte all'arte e alla maestria di molte di loro. Sento l'urgenza di riprendere la penna. Le antenate vogliono parlare. Ho impiegato la giornata leggendo in profonda ammirazione opere di donne con la sconfortante certezza che non sono state valorizzate come avrebbero dovuto né riconosciute per quello che erano. Mentre pensavo questo, sentii dei passi felpati come uno strisciare silenzioso alla mia sinistra. Nella notte stellata del deserto, ma già a est si intravedeva l'alba con la sua striscia arancione all'orizzonte, sedevo davanti a un focolare spento di antiche pietre e ascoltavo il suono del vento che impaziente si svegliava. Avevo scelto di convocare le antenate all'ingresso di un wadi, perché sapevo che prima della fine del nostro incontro sarebbe servita l'acqua ghiacciata del deserto. Una mano leggera mi toccò la spalla. Gertrude, completamente avvolta da un caftano blu e da un turbante che lasciava fuori solo gli occhi, portava una fascina di lunghi rami sottili. Sedette accanto a me sul piccolo tappeto di lana di capra, e cominciò ad accendere il fuoco per preparare il caffè, denso e scuro, facendo bollire la polvere tostata col cardamomo alla maniera dei beduini. Mentre io impastavo le piccole focacce di grano saraceno, sesamo e mandorle e le mettevo a cuocere sulle pietre calde attorno al fuoco. Ecco, l'acqua cominciava a bollire. L'aroma si espandeva e una fila di donne silenziose e intabarrate ci raggiunse serpeggiando sulla sabbia. Erano arrivate le sorelle. Una ad una sedettero in cerchio intorno al nostro piccolo focolare e tutte le mani si strinsero per ricreare l'antica sorellanza, convocando le antenate di ogni tempo e spazio. Poi ognuna si servì di caffè e intinse la sua focaccina nel vaso di yogurt e miele. Per qualche minuto mangiammo in silenzio, ascoltando il vento. Infine, Gertrude si tamponò delicatamente la bocca con la manica del caftano, si alzò e giunse le mani sulla fronte a salutare le stelle, l'alba che avanzava, gli spiriti del deserto, del vento e del fuoco, e cominciò il suo racconto. 1. Il racconto di Gertrude Lothian Bell. Gustate lentamente le vostre focaccine, sorelle. Io non avrei saputo prepararle meglio. Non ho mai cotto nulla in vita mia. Ho sempre avuto cuochi e alcuni tra loro, sorrise ironica, sapevano persino cucinare. Ma nel deserto mangiare non è mai la priorità. Fa troppo caldo di giorno e troppo freddo di notte. Il ristoro è nel tè, che si beve caldo, sedute al tavolino da campo al tramonto, lasciando riposare le gambe stanche e massaggiando i piedi indolenziti dagli stivali. Io, beh, nacqui rampolla di una famiglia ricchissima dell'impero britannico, i Lothian Bell. Mio nonno era un magnate industriale che fu fatto baronetto. Ebbi tutto ciò che una bimba può desiderare, ma volevo di più, volevo decidere per me. Essere indipendente, osare, sperimentare l'assoluta libertà che viene dal non avere più nulla. Al tempo dei miei viaggi in Siria, a dorso di cammello, scrivevo nel mio diario: da soli ci si deve avventurare in quel mondo, senza rifugio, senza difesa, senza alcun bene terreno. Fui archeologa, alpinista, linguista, scrittrice, fotografa, cartografa, fui anche statista. Nel mio ruolo di segretaria orientale dell'Arab Bureau, costituito in Egitto dall'intelligence di Sua Maestà Britannica nel 1916. Al Khatum mi chiamavano le tribù, mi consideravano la grande regina del deserto, ma come moltissime altre sorelle, Anche io fui dimenticata, nonostante in vita sia stata una delle donne più influenti dei due mondi. Ebbi la fortuna di studiare a Oxford. In quel piccolo universo maschile e maschilista fui la prima donna a prendere la laurea a pieni voti in storia moderna. Mio padre me lo permise. Fu mio alleato contro il volere di mia madre. È successo a tante di noi di avere una madre ostile all'apertura della nostra mente e alla nostra emancipazione. Christine de Pizan e Beatrix Potter, per dirne solo due. Le madri pensavano che la cultura e l'indipendenza di spirito ci avrebbero reso difficile il matrimonio, che loro consideravano l'unico sbocco possibile per una fanciulla di buona famiglia. Le madri pensavano di far bene. Non era colpa loro, erano state educate così, dalla scuola patriarcale. Come ho invidiato le figlie di Emmeline Pankhurst o di Marie Curie, che militavano, studiavano e si liberavano insieme alle loro madri dalle catene del patriarcato. Avevo cavalli, ma potevo cavalcare soltanto nella tenuta della mia famiglia. Avevo cultura, ma potevo parlare solo di banalità con gente banale. Avevo intelligenza e carattere, ma dovevo sembrare sottomessa e stupida per non spaventare, diceva mia madre, i miei pretendenti. Eh sì, decisamente l'Inghilterra mi andava stretta. Così, dopo una serie di viaggi in Europa e di scalate durante le quali rischiai più volte di rendere il corpo alla terra, finalmente partii per la Persia, alla volta dell'ambasciata di Teheran, dove i miei zii mi alloggiarono con ogni lusso e dove mi innamorai perdutamente del Medio Oriente, delle sue dune e dei wadi, della sua poesia e saggezza millenaria. Vissi in Medio Oriente nella sua fase di passaggio da impero ottomano a nazione araba. Arab in aramaico significa nomade. Queste erano le tribù. Questo ero io. Accompagnata solo da servitori assoldati di volta in volta a mie spese, girai a dorso di cammello deserti e rovine di città di pietra e venni accolta da sceicchi ed emiri di tutte le tribù, anche le più isolate e ostili. Preparavo con cura le spedizioni e stavo via mesi compiendo studi e ricerche archeologiche, antropologiche, politiche e naturalistiche che annotavo nei miei diari. Quando preparavamo le spedizioni, i miei uomini si occupavano delle vettovaglie, delle tende, delle selle e delle attrezzature, ma ero io che acquistavo i cammelli. Avevo una sorta di intuizione immediata sul loro stato di salute e di affidabilità, forse perché avevo sempre avuto cavalli nella tenuta della mia famiglia. Non seguivo uno schema e non avevo obiettivi se non la conoscenza e l'amore per il deserto e le culture arabe, ma questo mio vagabondare dalla Siria all'Arabia, dalla Mesopotamia alla Palestina, dal Libano alla Persia, mi permise di conoscere così bene il Medio Oriente che Churchill, quando fu il momento di fondare gli Stati Arabi all'indomani dell'uscita dell'Impero Ottomano dal loro territorio, chiese a me, conosciuta e ben accolta da tutte le tribù, di delineare i confini dei moderni Stati Arabi come oggi li conosciamo: Iraq, Giordania, Arabia Saudita. La mia amicizia personale con le tribù e i loro capi, la conoscenza dei loro sistemi di alleanze e degli spostamenti degli armenti per l'abbeveraggio sul loro territorio, che avevo esplorato di persone di cui avevo tracciato di mio pugno mappe dettagliate, faceva di me una collaboratrice preziosa, tanto che mi fu ritagliato addosso un incarico ufficiale, segretaria orientale dell'Arab Bureau, appunto. Non mi posi mai il problema se quello che facevo fosse giusto o lecito. Ascoltai sempre solo il mio istinto e mi avventurai con molto humor e sangue freddo in territori ostili anche all'Inghilterra, rischiando spesso di essere imprigionata o uccisa dai beduini. Ma gli sceicchi in me vedevano un capo, una nobile pari al loro rango, una persona di potere, ricca, intelligente, altera, ma istruita e rispettosa delle loro usanze, capace di indovinare sempre il giusto dono per ogni capo beduino secondo l'uso del deserto, dove un dono conta molto più del denaro. Io, donna, riuscii dove gli uomini fallivano, entrare nelle tende e città di pietra dei capi arabi. E Era costume che i servi mangiassero gli avanzi dei padroni. A me non piaceva, perché per me i miei servitori erano dei compagni di viaggio, se non proprio degli amici, ma questa era la regola e se non l'avessi osservata, non avrei avuto la credibilità di un capo agli occhi degli sceicchi. Le donne negli accampamenti tribali mi servivano senza guardarmi o rivolgermi la parola. Alcune erano splendide, alte, sottili, con occhi scintillanti come stelle, vestite di lunghi caftani blu con una sciarpa rossa a fissare il turbante e tatuate con delicati disegni di henna. Scivolavano scure e silenziose come ombre nelle tende e nelle case di pietra. Non parlavano, non avevano il permesso di parlare, se non tra loro. Mai in presenza degli uomini, nemmeno le cristiane che a volte vivevano ancora più segregate delle musulmane. Ai loro occhi io ero un capo e si comportavano con me come fossi un uomo. Le donne nelle tende vivevano in un loro spazio, dietro un divisorio, entravano nello spazio degli uomini solo per servirli. Erano le donne a montare le tende, tessute di peli di capra, forti e resistenti a pioggia e vento. Parlavo diverse lingue e molti dei loro dialetti e questo, unito alla capacità di comprendere e amare le usanze tribali, fece di me Al-Khatum, la regina senza corona. Ho bevuto tè alla menta nei khan, le locande tradizionali, ho camminato nei souk assorbendo l'odore delle spezie fino a impregnarmi nella pelle. Alcuni amici fidati mi dicevano, scherzando, che lasciavo al mio passaggio una scia di coriandolo e cumino. Laddove altri sarebbero tornati indietro, io andai avanti, mesi e mesi di marce sulle dune e attraverso i wadi, tra gli antichi cammini e i resti che io mappavo, spostando il campo ogni giorno e dormendo in una tenda polverosa. Gerusalemme, Smirne, Giaffa, Gerico, Beirut, Teheran, Alessandretta, Antiochia, Damasco, Bassora e naturalmente Baghdad. E poi la Mesopotamia preislamica, Babilonia, Najaf e la misteriosa e pericolosa Ha'il, dove fui imprigionata e solo grazie alla mia conoscenza del Corano e della psicologia beduina riuscii a liberarmi, e il Gebel Druso, la montagna nella Siria meridionale, dove riuscii a incontrare i Drusi, le tribù di eretici unitariani più isolate, sospettose e ostili del Medio Oriente. Sette viaggi in 15 anni, sette viaggi durante i quali stavo tutto il giorno in sella a un cammello ondeggiante, sulle dune, rischiando di essere rapita o uccisa, mangiavo cibo insipido, misto a sabbia, dormivo su un materasso scomodo e bitorzoluto, mi lavavo vestita quando riuscivamo ad accamparci in un'oasi, in una vasca di ferro trasportata dai cammelli. Non seppi mai di preciso cosa mi spingeva a quella vita scomoda e rischiosa. Ero stata chiamata e non potevo sottrarmi. La mia attrazione per quella terra arida e inospitale, la magia e la profonda commozione che sperimentavo nelle lunghe ipnotiche ore a dorso di cammello, attraversando un paesaggio sempre uguale, doveva venire da lontano. Credo di aver vissuto lì altre vite, migliaia di anni prima, forse come capo babilonese, assiro, accadico. E nei secoli l'impronta del comando mi era rimasta nelle memorie cellulari, quell'impronta che i beduini sentivano, riconoscevano e rispettavano. Oh, l'incanto e il mistero delle città di pietra in rovina nel deserto, in mezzo al nulla. I colonnati delle case dei ricchi senza più copertura, i muretti e le scalinate, le vasche e i ruderi delle case dei poveri. Arrivarci al tramonto quando il sole colora le antiche pietre di rosa. Come si può non lasciarsi incantare? Infine, superati i 50 anni, troppo debilitata per viaggiare ancora con la mia carovana, fui costretta a fermarmi a Baghdad, dove però non rimasi affatto inattiva. Avevo vissuto a Gerusalemme, avevo conoscenze e potere, ero ascoltata e rispettata. Allestii lo splendido museo archeologico dove potei far uso di tutto ciò che avevo appreso e scoperto durante i viaggi. Vivevo grazie a una sorta di vitalizio assegnatomi da Faisal, che io stessa avevo fatto incoronare re dell'Iraq, ma abituata a prendere parte attiva alla vita politica e alle decisioni strategiche, tanto dell'Inghilterra quanto dei paesi arabi, quando l'amministrazione inglese lasciò il controllo politico di quelle terre, io divenni inutile. Non tornai mai in Inghilterra. Appartenevo al deserto e alle sue tribù che mi amarono e mi venerarono come una madre. Caddi in depressione e infine, rimasta sola, povera e malata, a 57 anni lasciai il corpo con l'aiuto di una forte dose di sonniferi. Il mio cuore e i miei resti rimasero a Baghdad, tumulati nel cimitero degli inglesi. La storia ufficiale sostiene che io sia stata una spia a favore del governo inglese, ma è falso. Fui integerrima, ebbi sempre una sola faccia, una sola parola. Viaggiai. Sì, e raccolsi informazioni perché ero una studiosa e se trasmisi queste informazioni lo feci attraverso documenti ufficiali, libri e cartografia che lasciai in modo del tutto trasparente, senza segreti e senza tornaconto. Prova ne è che quando smisi di viaggiare e operare scambi coi beduini, vissi del magro sussidio passatomi dal governo iracheno. Vostra Eccellenza, mi chiamavano i miei servitori e le genti del deserto. Collaborai con loro in Starabia, ma il mio potere e la mia conoscenza del Medio Oriente, dei suoi usi, caste e convenzioni sociali erano superiori alle sue. Ciò nonostante, lui è ancora ricordato e io no. Sono stata accusata di essere una persona sgradevole e campanilista, di essere convinta che il sistema di governo inglese fosse in assoluto il più giusto da applicare anche fuori dall'Inghilterra, e che le tribù del deserto e gli stati del Medio Oriente avrebbero sicuramente tratto beneficio dal nostro protettorato. La stessa accusa è stata mossa a Charlotte Bronte. È vero, ma occorre ricordare che entrambe vivemmo all'epoca in cui la regina Vittoria regnava su un impero dove non tramontava mai il sole, che andava dall'America all'Asia. Vittoria era una donna e aveva reso grande e potente l'Inghilterra. Noi credevamo in lei e consideravamo buono e indiscutibilmente giusto tutto ciò che Sua Maestà diceva o faceva. Non mi interessai mai attivamente dei diritti delle donne o della loro rivendicazione di suffragio, proprio come Rosa Luxemburg, Florence Nightingale, Marian Evans, a noi nota come George Eliot, Karen Blixen e altre donne che vissero come uomini la loro vita quotidiana. Io stessa fatico a spiegare ora il mio atteggiamento verso ciò che allora invece non richiamava minimamente la mia attenzione, i diritti delle donne. Perché non abbracciai la causa? Perché non sostenni le loro istanze? Io, che ero così potente, avrei potuto fare molto. Ecco, la risposta credo sia che andai nel deserto per infrangere un tabù. Feci tutto ciò che una donna non avrebbe dovuto fare e lo feci meglio di un uomo. Dimostrai che le donne possono. Entrai nelle tende dei capi dall'ingresso degli uomini, fui invitata alle loro mense mentre le loro donne li servivano e poi uscivano per mangiare altrove. Incarnai l'emancipazione femminile con la mia stessa vita. Certo, fui aiutata dal denaro della mia famiglia e dall'educazione ricevuta che faceva di me una persona sicura di sé, ma alla base ci fu la mia determinazione, la volontà, la ribellione al sistema e la scelta dura, spietata e senza ritorno, di seguire solo il mio istinto. Gertrude si alzò e respirò profondamente il profumo dell'alba. Il cielo andava a poco schiarendo. Elegante, passò tra noi col bricco del caffè che era rimasto in caldo sulle braci. Nelle tribù, preparare il caffè è compito degli uomini. Offrire a un ospite il caffè fatto da una donna è considerato un insulto. Noi sorelle, al contrario, ci sentimmo onorate di riceverlo dalle mani di Al Katum, la regina senza corona. Dopo averci servite tutte, Gertrude si fermò di fronte a una donna drappeggiata in un caftano khaki, il capo nascosto sotto un grande cappello coloniale da cacciatrice. Allungò le mani e l'aiutò ad alzarsi. Era Karen. Karen Blixen, un'altra di noi, grande viaggiatrice e narratrice di storie. Karen, baronessa per convenienza, raccolse il testimone, appoggiò la sua tazza sul tappetino, si alzò, salutò il fuoco e il cerchio e si preparò a narrarci il suo incontro con l'Africa, avvolta dalla nebbiolina che nel deserto si leva all'alba dalla sabbia. Si toccò la fronte con il dito medio della mano destra e cominciò a parlare.